Buongiorno a tutti, eccoci a questo ultimo appuntamento per il 1990 dello spazio dedicato alla fantascienza. E le proposte crescono, bisogna dire. Abbiamo già parlato nelle volte scorse, vi ho detto come ormai siamo forse di fronte a un piccolo boom della fantascienza come quello che si verificò verso la metà degli anni 70. Le collane crescono, le proposte anche, quindi orizzontarsi e orientarsi è tutto sommato un po' complicato, però in alcuni casi i vecchi classici ci sovvengono, quindi comincerei oggi segnalandovi l'ultimo dei classici Urania, in edicolo ormai da qualche tempo, il classico Urania di dicembre, che è un testo ormai storico della fantascienza. Si tratta del famosissimo Cronache marziane di Ray Bradbury, che è stato ormai stampato innumerevoli volte. È un testo fondamentale un po' per la fantascienza, non solo in America ma anche in Italia. Uscì nel 1950 e qualche anno dopo, non ricordo più se nel 52 o nel 53, Giorgio Monicelli, che sarebbe stato il fondatore di Urania e che comunque all'epoca lavorava per Mondadori, lo, diciamo, tradusse e lo inserì niente di meno che nella famosa collana La Medusa, che era una collana di grandi romanzi. C'era dentro Steinbeck, c'era dentro Los Passos, ci fu anche Joyce poi. E quindi in qualche modo nobilitò, insomma, la fantascienza in Italia cominciò non come una cosa così, insomma, di narrativa da edicola, ma cominciò con questo testo veramente, veramente singolare, insomma, diciamo, rileggerlo oggi a distanza di qualcosa come 40 anni, certamente dimostra. Dà un po', insomma, l'idea del tempo in cui è stato, diciamo, scritto, ma direi che è ancora fresco e, diciamo, leggibile. Si tratta, come tutti voi sapete, di una immagine di Marte molto, molto poco scientifica, naturalmente, e molto, come dire, nostalgica. Il pianeta viene colto nel momento in cui la sua vecchia e antica civiltà, i suoi abitanti, insomma, sono, insomma, diciamo, sul punto di questa civiltà è sul punto di finire, e arrivano i primi coloni terrestri che sono destinati a rovinare in qualche modo per sempre questo paradiso. Ma sullo sfondo c'è una guerra, e evidentemente così, insomma, le conseguenze della bomba di Hiroshima erano ancora vive in molti, insomma, scrittori, in tutta quanta l'opinione, e alla fine si arriva a questa bellissima metafora finale. Ho sempre tanto voluto vedere un marziano, disse Michael, il ragazzino che sta sull'orlo dello stagno, ma non lo vedo mai, eppure me lo avevi promesso, papà. Guardali dove sono i marziani, disse il babbo, che si tirò Michael in braccio, indicandogli l'acqua. Laggiù i marziani? Erano là i marziani, nell'acqua del canale che ne rimandava l'immagine. Erano Tim, Mike, Robert, la mamma, il babbo. Insomma, i marziani siamo noi, come da questo libro in poi, molti altri libri avrebbero detto. Ricordo fra tutti il bellissimo Noi Marziani di Philip Dick, che in qualche modo riprende la stessa, diciamo, idea. Approfitto di questa segnalazione dei classici Urania per segnalare anche l'ultimissimo Urania in edicola da pochi giorni. Il titolo è veramente non vi fa affatto capire che cosa sia: Destinazione Spazio di Donald Walheim. Uno si aspetta un ennesimo romanzo, forse un ripescaggio del vecchissimo Walheim, e invece si tratta niente meno che dell'antologia della migliore fantascienza dell'anno, dell'89, tradotta quest'anno da noi, curata tutti gli anni da Donald Walheim. Vi segnalo un paio di racconti di questa antologia, che non è niente di speciale, ma c'ha alcune cose buone, perché sono due racconti che hanno a che fare entrambi con la scienza e dimostrano che l'ultimissima fantascienza è capace di prendere spunti anche da degli argomenti scientifici e farli diventare dei racconti estremamente gradevoli. Uno è Il gattino di Schrödinger di George Effinger, che ha vinto, mi sembra, un premio Nebula anche nell'89, e l'altro è Increspature nel mare di Dirac di Geoffrey Landis. Per il resto abbiamo delle cose più o meno normali, insomma, leggibili, ma questi due, in particolare il primo, Il gattino di Schrödinger, è molto tutto giocato fra gli universi paralleli e le equazioni di Dirac. Abbiamo già parlato varie volte in questo spazio, almeno una volta che io ricordi, della diciamo nuova politica editoriale per quanto riguarda la fantascienza della casa editrice Interno Giallo, i cui primi libri non avevano forse del tutto diciamo convinto, ma che ora invece col passare del tempo dimostra di fare delle scelte sempre più intelligenti e di colmare dei buchi, dei vuoti che in modo direi meritorio. Questo ultimo romanzo di Kim Stanley Robinson, edito appunto da Interno Giallo, dimostra ancora una volta questo fatto. Si chiama La Costa dei Barbari, The Wild Shore era nel titolo originale La Costa Selvaggia, ed è apparentemente un libro, così, per così dire, che riprende un tema insomma classico, desueto forse, ed è il post-catastrofe, insomma. Siamo in un mondo in cui l'America è stata distrutta da una serie di esplosioni nucleari, non si sa bene da chi, e la civiltà rinasce lentissimamente. Gli americani sono ridotti a piccole comunità isolate l'una diciamo dall'altra, senza alcuna tecnologia, quindi grosso modo ad un'epoca vagamente insomma neolitica, c'è un po' di agricoltura, un po' di cose eccetera, ma le tecnologie disponibili sono molto poche. Bisogna dire però che Kim Stanley Robinson, per chi lo conosce, è probabilmente l'unico grande autore, l'unico grande scrittore che la fantascienza americana ci abbia dato negli anni Ottanta, insieme ovviamente a William Gibson. Ha un modo di scrivere ovviamente diverso da quello di Gibson, oserei dire quasi opposto. Qui in questo libro quello che fa Robinson è di riprendere con una grande capacità di controllare la diciamo trama e di appassionare, di interessare anche il diciamo lettore, pur non avendo dei ritmi estremamente serrati di azione, di riprendere la grande tradizione americana del romanzo di formazione, cioè non so, diciamo Huck Finn di insomma Mark Twain, cioè la storia di un ragazzo che diventa uomo in condizioni in qualche modo eccezionali, come appunto queste in cui diciamo l'America viene tenuta in modo un po' artificiale in questa condizione di sottosviluppo da una misteriosissima presenza che è quella dei giapponesi o comunque degli orientali, i quali controllano dall'esterno tramite navi, satelliti eccetera che le varie piccole comunità di americani non si mettano in contatto. Ma quello che è più bello e più interessante di questo libro è la capacità che ha Robinson di farci vivere giorno per giorno la vita di queste piccole comunità, di mettere in luce i loro diciamo problemi e di far vedere questa straordinaria e interessantissima figura di appunto giovane, il giovane Henry Foster, il quale così maturerà a poco e arriverà ad una sorta di diciamo di consapevolezza adulta tramite questa sua vita, queste sue avventure in questa America selvaggia. Il diciamo libro è il primo di una trilogia, ma non nel senso che i vari romanzi siano l'uno il seguito dell'altro, ma nel senso che l'ambientazione è comune, trilogia della Orange County, di cui Interno Giallo nei prossimi mesi, il prossimo anno, presenterà gli altri due libri. Bene, con questo io vi lascio, vi auguro le buone feste, ci risentiremo subito dopo l'Epifania, a risentirci. Eine Deutsche Bahn.